un amico e due birre al bar. Parlare poco, ma capirsi già. Come stai? Come vuoi che stia? Ora lei non è più storia mia. Un amico serve quando tu hai perduto al gioco e non giochi più, quando sei nei guai. Un amico, sai, ti capisce al volo, sa che hai perso lei e ti senti solo, e i problemi, sai, sono gli stessi e noi, tanto non si cresce mai. Un amico, sai, è come la chitarra per i marinai che sognano la terra, un po' come noi, tanto non si cresce mai. Un amico e quattro birre al bar, cuore un po' ubriaco di vita e libertà. Certo noi li abbiamo buttati via, biglietti, sai, di questa lotteria. Un amico incosciente è, mela con il baco, ma indifferente mai, quando sei nei guai. Un amico, sai, ti capisce al volo, ci litigherai, ma non ti lascia solo, che i problemi, sai, sono gli stessi e noi, tanto non si cresce mai. Con un amico fai scuola e militare, ti sconsiglierà, sbagli sull'altare, ma sarà con te quando te ne pentirai. E si può stare un anno senza telefonarsi, perché la vita ormai va presa a morsi. Ma è bello perdere tempo, ridere e non pensare, se non gli amici che ci stanno a fare. Penso lei e ti senti solo, che i problemi, sai, sono gli stessi e noi, tanto non si cresce mai. Un amico, sai, è come la chitarra per i marinai che sognano la terra, un po' come noi, tanto non si cresce mai.